Beh, io ho debuttato proprio in una famosa partita, avevo 13 anni, 1952, stadio Alcarotti, spettatore 17.000, pensare che adesso facciamo 10.000, nel 52 facevamo, quando c'era il Juventus 30.000, oltre 15.000 spettatori. Mi ricordo bene perché quella partita lì perdemmo 6-0. E mi ricordo ancora la formazione del Novara e della Juventus, perché insomma, no, chi può dimenticare Corghi della Frera de Toni, Rosen, Molina, Baira, Reni, Calberico, Piola, Ianda, Pesaula,